Altra prova rinvenir potessi, vediam. Il buon ritratto, se non v'è, nulla ne disse, nulla promisi, apra dunque. Il tuo padre di quel volto rosso.